Andrea e Morena in Per fare un branco ci vuole un lupo. Storie di specie non classificate. Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata. Mi scuso innanzitutto con tutti per questa mia costipazione, ma purtroppo l'influenza raffreddore ha preso possesso. Quindi buongiorno da me Andrea. E da me Morena. Mica solo a me deve toccare, scusami, essere senza voce, mal di gola. La volta scorsa eri senza voce. Vabbè, ma va bene uguale. Nel senso, no, mi sembra un'ottima par condicio. Sì, va bene. Prima di tutto, prima di iniziare con la nostra puntata, in sottofondo sentirete ogni tanto dei piccoli vagiti perché sono nati! Sì, sono nati i cuccioli che sono 5 e quindi li presentiamo anche a voi che ci ascoltate. Sono 5 cuccioli, di cui 3 maschietti e 2 femmine, che si chiamano Bronson, il primo, perché vabbè, Morena è appassionata della pubblicità, non so se l'avete seguita quella di Bronson, noi non guardiamo molto la televisione, però questa pubblicità ci ha colpito. Mi ha rapito, voglio tatuarmi Bronson anch'io. Esatto, e poi abbiamo Hurricane, poi abbiamo Taz. Taz. Esatto, e poi abbiamo le 2 femminucce, di cui una si chiama Storm e una si chiama invece Andromeda. Che non è Andromeda. È Artemide. Perché non so Andromeda? Perché Andromeda e Artemide me li confondo sempre. Ma meglio Artemide, che Andromeda mi ricorda quello dei Cavalieri dello Zodiaco che non sopportavo. Quello rosa. Che fastidio. Artemide era la protettrice degli animali, quindi ecco. Ci sta assolutamente. Esatto, quindi sono 5, si stanno risucchiando praticamente la mamma, sì. Sono sempre attaccati e va bene così. Taz l'abbiamo chiamato così perché? Perché l'unico perché... a essere uscito con la bocca aperta alla ricerca, esatto, di cibo, cioè nel momento in cui è nato. Va bene, detto questo, quindi abbiamo questi nuovi componenti del branco, a cui si aggancia perfettamente il discorso di cui volevamo parlare appunto in questa puntata. Oggi iniziamo ad analizzare nello specifico tutti i vari ruoli del branco, con le applicazioni pratiche e con quelle che dovrebbero essere le figure corrispettive umane di appunto i ruoli, quelli che sono invece del branco di lupi. Il primo ruolo che andiamo ad analizzare è appunto... Gli alfa, esatto. Gli alfa, che non sono delle autovetture, nulla di tutto questo, vabbè, faccia pessima. Comunque, anche i Delta, infatti, il gruppo Fiat Delta. ha preso, come dire, un sacco di spunti. Non sul branco di lupi, ma almeno non credo che abbia scelto. Credo sia dall'alfabeto greco. Dall'alfabeto greco, basta. Immagino, insomma, però sarebbe carino invece avere. Vabbè, potremmo fare una proposta al gruppo Fiat, magari. Ex Fiat, no? Sì, fuori strada potrebbe essere un Delta specializzato. Potrebbe essere un Delta, dare magari dei nomi specifici non sarebbe male. L'Alfa, l'automobile, quella degli imprenditori, sai, quelli di... Il Beta, la macchina, quella tamarrissima del bullo di quartiere. E poi, di conseguenza, vabbè, ma comunque... Tuning. Sì, esatto. Vabbè, oggi parliamo quindi degli Alfa. Perché si connette bene il discorso dei cuccioli? Perché... ovviamente all'interno di un gruppo in cui gli alfa fanno bene il loro lavoro, di cui andremo a parlare, il branco prospera. E non solo prospera, ma addirittura aumenta i suoi individui, quindi cresce come numero. Ragazzi, arrivate, qua ci sta bene. Esatto. Quindi questo dimostra che effettivamente la nostra gestione alfa è una buona gestione. Se pensate, oggi il branco, oltre quelli che eravamo prima, che eravamo in 13, ok, si sono aggiunti 5, quindi siamo in 17 oggi. Quindi stiamo... Grazie. 18, scusate, madonna, che vergogna. Ok, sono 18, quindi non sapevo come dirlo. Va bene, ma hai fatto bene a dirlo. Sono 18 e quindi sì, io con la matematica faccio veramente schifo, quindi come avete notato, avevo fatto anche i pianti con la mano, peraltro. E quindi siamo in 18 oggi, quindi vuol dire che gestire 18 individui è qualcosa di molto molto serio e talvolta può essere anche complesso. Ma parliamo quindi degli alfa. Gli alfa chi sono? Le 2 figure di riferimento del branco. Esatto, esattamente. E come dicevamo già in anticipazione la prima volta, sono tendenzialmente maschio e femmina. Quindi parliamo adesso del ruolo dei lupi proprio. Poi vedremo come applicarlo nella vita di tutti i giorni. La coppia alfa. Esattamente, la coppia alfa. Sono maschio e femmina, sono gli unici che si riproducono. Non è detto che siano i più grossi e i più forti. Tendenzialmente sono semplicemente coloro che sanno gestire correttamente un branco. Quindi sanno mettere tutti gli individui nel luogo corretto, esattamente dove manifestano i loro maggiori talenti. La coppia alfa, come dicevamo, è più, diciamo, creata ad opera della femmina. Eh sì, Esattamente come avveniva nelle antiche civiltà, d'altra parte. Esattamente, quindi la femmina alfa è colei che decide, tendenzialmente, che mette sigla, l'ultima parola, su quella che è il maschio più corretto, con cui ovviamente legarsi e con cui portare avanti la prole e la gestione. Dai, che ti è andata bene. Sì, esatto. In qualche modo, tra l'altro, i lupi hanno la coppia alfa, è una coppia monogama ed è una coppia che tendenzialmente dura per la vita. Stessa cosa per il falco. Stessa cosa per il falco, quindi pensate le analogie anche in questo caso. Quindi dura per la vita e quindi si accompagnano lungo tutte le peripezie, quindi momenti gioiosi e momenti sofferenti di tutta la vita. Meccanici un po' meno onore in questo, però se lo sono un po' dimenticato, diciamo che il cane non è per niente monogamo, anzi, dopo io coio. Dai, questa immagine, anche se Dummino era lì che zampettava avanti e indietro per la scala mentre Soiella partoriva in camera, sì, assistita da noi. Lui faceva avanti e indietro per la scala e faceva molto ridere perché c'è stato questo momento, poi giuro smetto di parlare di questa cosa del parto ma sono esaltata, c'è stato questo momento in cui c'era il nostro gatto Cigolo che era tutto agitato anche lui e faceva tutti gli onori di casa perché si sente ormai lo zio di tutti i cuccioli. Esatto. E Dummino che andava avanti e indietro, anche perché gatto Cigolo è l'unico che è stato per ora accettato totalmente da Soiala, quindi è l'unico che può stare con i cuccioli quando Soiala va fuori in giardino a fare pipì e farsi sgranciarsi un po' le zampe, può fare il babysitter in qualche modo, e Dummino invece che continuava a fare avanti e indietro, faceva morire dal ridere, sembrava veramente nei migliori film il papà, sì, tutto agitato. Esatto. Infatti gli abbiamo fatto anche la fotografia appunto con la cravattina, magari la pubblicheremo anche su Facebook. Eh sì, è diventato serio, è diventato un esatto. Detto questo, quindi abbiamo, come dicevamo, la coppia alfa che si diciamo conduce la propria vita in questo modo, quindi gestisce i tempi del branco, gestisce per fare in modo che il branco sia bello, sia un branco in cui si sta bene, in cui si cresca e in cui magari ci siano anche nuovi individui che subentrano, eccetera. La cosa curiosa è che gli alfa decidono, in realtà il loro lavoro è più che altro all'inizio della creazione, soprattutto il branco in cui mettono i diversi individui nel corretto, diciamo, posizionamento gerarchico, e per gerarchico intendo funzionale, cioè di quello che fanno nell'attività di tutti i giorni, e poi in qualche modo per certi versi quasi se ne disinteressano, tra virgolette, cioè se hanno messo un corretto individuo in quel determinato tipo di posizionamento, lasciano che quella persona, scusate, che quell'individuo si prenda le responsabilità. Supponiamo di avere un delta esploratore, quello vedremo quando parleremo del delta. Quando il branco si sposterà, ovviamente sarà il delta a condurre tutto il resto del branco, quindi non saranno più gli alfa, ma semplicemente gli alfa seguiranno quello che poi è tutto il branco. Chiaramente il talento degli alfa è proprio quello di scoprire i talenti, mettere esatto. la persona o l'individuo giusto al posto giusto. Esattamente. Quindi questo è in linea di massima, poi adesso senza approfondire troppo, ma insomma, per darvi le linee generali, questo è quello di cui si comportano gli alfa. È giusto premettere anche che nell'essere umano, nel lupo ovviamente i ruoli sono molto molto definiti, nell'essere umano un po' meno, anche perché noi non siamo lupi, siamo esseri umani, quindi in qualche modo sono meno definiti. Quindi è probabile che ognuno di voi, come ognuno di noi, ha un'energia predominante e poi le altre energie, diciamo, in percentuale minore. Tant'è che appunto il test che effettuiamo noi, il test Wolfpack, serve proprio a determinare in percentuale quelle che sono le varie energie di ogni ruolo. Quindi un nome a caso. Il nome a caso, Wolfpack appunto significa branco di lupo, per chi non conoscesse l'inglese bene. Quindi in sostanza abbiamo quindi una percentuale di ruoli differenti, quindi magari chi è alfa può essere anche beta, chi è beta potrebbe essere anche omega e gamma a seconda delle percentuali. Questo adattiamolo nella vita di tutti i giorni. Nella vita di tutti i giorni gli alfa tendenzialmente dovrebbero essere i capifamiglia, quindi se vogliamo i genitori, quindi papà e mamma della famiglia, oppure gli imprenditori, oppure il capitano della squadra con l'allenatore, ad esempio, oppure i leader politici. Vabbè, sui leader politici lasciamo perdere, comunque teoricamente dovrebbero essere così, quindi supponiamo appunto abbiamo il presidente d'Italia, dovrebbe essere un buon alfa per far star bene tutta la popolazione. Quindi vi dà già un sacco di risposte queste sulla capacità degli alfa dei nostri politici, ma a parte questo, ma è perché non hanno fatto il lavoro del branco di lupo. Esattamente. Quindi in qualche modo cosa succede? Succede appunto che si ha questo tipo di impostazione nella vita di tutti i giorni. Ovviamente in questo c'è sempre una coppia. In realtà nella parte umana non è detto che la coppia sia una coppia di fatto, cioè il fatto che siano assieme, che ci sia quindi un'attrazione sessuale, che ci sia un'attrazione sentimentale di amore. E semplicemente il fatto, ad esempio, in una famiglia, sì, nel senso tendenzialmente dovrebbe essere così, no? La coppia alfa, una famiglia dovrebbe avere esattamente questo, quindi uomo e donna, o uomo e uomo, donna e donna, cambia poco, insomma, ognuno ha la sua orientamento sessuale, in quel caso c'è proprio un'attrazione fisica e si tenta di riprodursi e tutta una serie di fattori. Quindi gli alfa sono coloro che prendono decisioni, le prendono pensando al prima al branco che a loro stessi, per il miglior, la miglior ovviamente andamento del branco stesso, no? Migliorare il benessere. Esattamente, quindi in una famiglia questo dovrebbe essere l'impostazione alfa, l'organizzazione, la gestione e far sentire tutti importanti. Perché? Perché tutti sono importanti, ovviamente. In una azienda, ad esempio, potrebbero essere i soci. Anche qua sui soci facciamo una, diciamo, un'anticipazione. Non, spesso le società, soprattutto in Italia, vengono fondate con percentuali abbastanza pessime. Beh, 50-50, esatto. Siamo tutti amici, tutti fratelli. Magari facciamo anche un SNC, no? Così almeno se falliamo ci vengono a prendere anche le mutande. No, dico, e ringraziamo questi commercialisti che ovviamente non sanno fare il loro lavoro e consigliano anche delle cose di questo tipo, appunto le SNC, che sono la cosa, il peggio della peste bubonica. Ma anche il 50-50, perché di fatto non c'è nessuno che decide. Quindi in qualche modo supponiamo che invece un'azienda abbia fondato, quindi ci siano due soci fondatori che non hanno il 50-50, quindi in qualche modo quella è la coppia alfa. La coppia alfa ovviamente in questo caso magari sono due uomini con le loro famiglie, con le loro mogli o i loro mariti, eccetera. In questo caso la coppia alfa, è vero che in azienda sono loro, ma sono una coppia alfa anomala, cioè nel senso non si riproducono a livello sessuale e non stanno insieme a livello sessuale, non c'è questa attrazione, eccetera. Sono però coppia alfa per quello che riguarda le decisioni. E anche qua c'è comunque una suddivisione tra energia maschile e femminile. L'energia femminile è quella di socio di maggioritario. No? Sì, il fatto del condividere, certo, tutta la parte di attrazione viene meno, sul fatto di condividere la vita tendenzialmente invece condividi di più la vita con la persona che hai a fianco in ufficio rispetto che con la persona che hai scelto, con cui hai scelto di condividere la vita. Decisamente sì, questo spesso e volentieri è quello che accade. E quindi in qualche modo dicevamo, quindi il socio di maggioritario ha e rappresenta più l'energia femminile, ovviamente, perché è colui che mette l'ultima parola su tutto, se tra virgolette, e che potrebbe eventualmente mandare via anche il socio di minoranza. Ehi, finalmente l'avete consapevolizzato. Esatto. E il socio di minoranza ovviamente rappresenta la parte maschile del branco stesso. Attenzione però agli alfa nascosti. Gli alfa nascosti cosa sono? Noi quando lavoriamo nell'azienda dobbiamo scoprire se gli alfa con cui stiamo parlando sono veramente gli alfa oppure c'è l'alfa nascosto. Vi faccio un esempio. Supponiamo che voi nella vostra attività lavorativa, quindi siamo io e Morena, ok, io propongo qualcosa, quindi facciamo proprio la scenetta. Ciao Morena, ti voglio proporre questo tipo di attività di branco per la tua azienda. Cosa ne pensi? Basta? Vabbè, un po' di più. Ah, sì, interessante. Guarda, facciamo una cosa. Guarda, ti dico già anche il prezzo. Costa 10.500 euro. Ah, ok. Sì, ma non è un problema il prezzo. Cioè, la mia azienda fortunatamente va abbastanza bene. Potrebbe migliorare, chiaramente. Questa cosa mi interessa molto. Vediamo di riuscire a farla fruttare. Sono molto, molto interessato. Facciamo così. Ci risentiamo magari così ti do un'idea, ci sentiamo magari domani, dopodomani. Ok, quindi in questo caso abbiamo uno dei due soci, o meglio, magari abbiamo tutti e due i soci, ora abbiamo Morena, che è la socia fondatrice, insomma, ma supponiamo che in questo caso Morena aveva accanto il suo socio, l'altro socio fondatore, e quindi sono d'accordo tutti e due, ok? Quindi sembra una persona anche ben disposta, non ha fatto neanche difficoltà sul prezzo, eccetera. Il giorno dopo, ciao Morena, quindi possiamo firmare il contratto? Ciao, no, guarda, è che ho guardato bene, no? E all'interno dell'azienda effettivamente questo tipo di lavoro sì, mi servirebbe molto, però all'interno dell'azienda ho valutato che magari è il caso di aspettare perché abbiamo tanto lavoro. Perfetto, stop, possiamo interrompere anche qua. Quindi in questo caso il vero alfa, la parte femminile, non era presente alla riunione del giorno prima. Perché? Perché il vero alfa è a casa. La decisione quindi non è ad opera di quelli che si raffigurano come gli alfa dell'azienda, ma la figura, quella femminile in questo caso, che sia poi marito o moglie, indifferente, è a casa. Quindi quello che probabilmente è successo in questo caso è Morena, socia fondatrice, con suo socio accanto, tutto a posto, fantastico, anzi per l'azienda è molto utile, anche perché gli abbiamo già dimostrato che incrementa il fatturato, che incrementa tutta una serie di fattori. Succede che alla sera da casa parla con suo marito o con sua moglie, ma anche d'altro, o anche altri potrebbe essere. No, anche d'altro, nel senso, può anche non necessariamente parlare di questo tipo di progetto, anche semplicemente rientriamo in schemi in cui magari semplicemente parlando di qualsiasi altra cosa si rientra in quel meccanismo in cui il giorno dopo subentra un cervello rettile, per così definirlo, o subentra quel tipo di insicurezza che il giorno dopo... Tendenzialmente c'è anche da dire che se un alfa prende una decisione e il giorno dopo la cambia, evidentemente non è un buon alfa, perché il fatto di cambiare repentinamente decisioni non manifesta una buona decisione da parte degli alfa stessi. Quindi in quel caso, quello che sta palesando Morena in questo momento addirittura rappresenta proprio un'incapacità proprio di essere alfa in questo caso, perché prende una decisione, puoi cambiarla, poi magari ricambiarla di nuovo, non rappresenta una prova vera e propria coerenza in qualche modo, no? Quindi in qualche modo l'esempio che volevo citare io era semplicemente del fatto, supponiamo che invece questa persona abbia preso veramente la decisione perché sente un qualche tipo di decisione, poi questa decisione venga cambiata, no? Ad esempio, sei d'accordo con me? Dico, in questo caso l'alfa, in quel caso che fa in cambio di decisione, non è un alfa, diciamo. No, sì, sicuramente. Tendenzialmente, appunto, ci sono meccanismi nei quali restiamo incastrati, no, che certo. sono talmente nascosti, specie a noi stessi, poi in prima persona, che sono davvero difficili poi da andare a ritrovare, da capire esattamente qual è stata l'origine. E come? Quindi tornando all'esempio un po' più semplice, quindi in questo caso la persona, quindi in questo caso Morena, è andata a casa, ne ha parlato con suo marito, con sua moglie, e magari il marito o la moglie ha detto, ma senti, ma ti sembra proprio il caso di farlo, perché sai, le spese della tua azienda, attenzione, non della nostra, perché fosse la nostra parla benissimo, no? No, della tua azienda, guarda che in qualche modo, quindi se poi dobbiamo anche andare in vacanza, questa, poi sai, e quindi cosa succede? Morena arriva il giorno dopo e ci dice che questa attività non si può fare perché ovviamente ha parlato col vero alfa che prende le decisioni a casa e la decisione è stata cambiata, giusto? Assolutamente. Quindi in qualche modo è questo il caso più difficile di non poter scontrare il corretto alfa, cioè c'è un alfa silente. Ma in questo subentra l'energia omega, inviti a cena entrambi. Esatto, quindi in questo caso anche per voi imprenditori che magari fate una cosa o intuite una cosa di questo tipo, meglio andare a cena con tutti e quindi parlarne con chi veramente prende le decisioni e chi non fa finta di prenderle, insomma. Ecco. Quindi ecco, questa è la manifestazione. L'alfa corretto all'interno di un'azienda è colui che fa prosperare l'azienda, colui che pensa al benessere e al meglio per l'azienda e soprattutto è colui che sa identificare i ruoli e i talenti di ognuno e li sa esattamente mettere nel posto corretto. Quindi tu che ci stai ascoltando, che sia imprenditore o che tu sia dipendente o che stia lavorando con un altro imprenditore, prova a pensare se questo imprenditore ti metta nel tuo migliore, diciamo, area di talento. Oppure il tuo imprenditore prova a pensare se i tuoi dipendenti, i tuoi collaboratori li mettessi nella vera area di talento in cui performano al meglio, in cui si sentono parte di un gruppo importante, in cui sanno qual è la missione importante e tutti, ognuno di loro sta facendo per il benessere di quel branco stesso, non semplicemente per il benessere personale. Beh, devo dire che questa potrebbe essere la svolta proprio del lavoro in generale, poi dipende sempre da uno cosa intenda per lavoro, però una svolta vera e propria, insomma. Anche all'interno della famiglia. Soprattutto, certo, ha voglia, all'interno della famiglia, poi da dove parte, cioè tutto se vogliamo, no? No? Ok, scusate. Quindi questo è quello che riguarda, ad esempio, nelle aziende. Nei gruppi sportivi stessa cosa, il fatto di avere un allenatore, un capitano che sia e che sappia prendere decisioni per il benessere di tutti. Parliamo dei leader politici, perché in quel caso purtroppo, come vi dicevo, entreremo in un discorso veramente pessimo. Non so quanti leader politici abbiano mai pensato al benessere veramente del popolo, tra virgolette. Forse alla memoria, la storia. Direi nessuno, insomma, perché ognuno ha pensato principalmente al suo interesse e poi forse diciamo che la fortuna migliore per un leader politico, di avere un leader politico di un certo tipo, è il fatto che pensi al suo benessere, che pensi anche al benessere della popolazione. Tendenzialmente avete notato come da parte mia c'è stato un Sì, esatto. Totale, per non entrare in questa diatriba eterna altrimenti tra me e Andrea. Sì, perché io considero la classe politica tutta una merda, quindi dico palesemente, mi fa schifo la classe politica, d'accordo, ma non solo italiana, attenzione. Ma la cosa bella è che potrebbe essere migliore, quindi ma può sempre migliorare. No. Non è possibile che migliori, perché ci dovrebbe essere una volontà a monte per poter migliorare. Ma se non c'è la volontà a monte, anche tu che mi stai ascoltando, ovviamente ci deve essere la tua volontà di poter migliorare, perché se non c'è la tua volontà di poter migliorare, ovviamente non si può fare assolutamente nulla. Noi non cambiamo la vita di nessuno, noi diamo degli strumenti per fare in modo che tu, o il tuo gruppo, o la tua azienda, o il tuo gruppo sportivo, quello che sia, possa migliorare al meglio. E tendenzialmente quello che accade, migliorando l'impostazione degli alfa, quindi quando gli alfa lavorano con noi in un certo modo, vanno a migliorare non solo il benessere, ma anche proprio le performance sportive, le performance di riscontro con la gente, se vogliamo parlare di leader politici, se vogliamo parlare di aziende e di fatturato, ovviamente. Poi il benessere è una cosa ovviamente non poco quantificabile. Dipende, perché ad esempio se tu ti metti dei paletti, cioè il prossimo anno io per dire che è migliorato il mio benessere, è migliorata la mia situazione, voglio fare almeno 4 viaggi. Ah, certo, io per le famiglie, tu dici. Se io riesco a fare, nelle famiglie tendenzialmente non è il fatturato di per sé, no, certo. Ma comunque se riesco a fare quei 4 viaggi è perché migliora comunque il mio stato di benessere. Ah, sì, assolutamente sì. Quindi in qualche modo l'alfa dovrebbe rappresentare proprio queste caratteristiche molto importanti che purtroppo non abbiamo riscontrato tantissime volte. È un ruolo decisamente molto molto impegnativo, come tutti i ruoli chiaramente, quando uno ci si immerge totalmente. Certo. È molto impegnativo perché comunque deve avere sempre un occhio su tutto, un occhio sul branco, un occhio dalla mia esperienza, dalla mia parte, chiaramente avendo io anche un'energia omega, e un occhio sul benessere di tutti, quindi che tutti stiano bene, che tutti stiano performando al meglio nel loro ruolo, che tutti siano nella loro piena area di agio. Eh sì, assolutamente sì. E questo, ripeto, abbiamo riscontrato, non avviene molto spesso. A volte ci sono anche magari aziende che già performano molto bene, seppur non hanno queste, diciamo, queste dinamiche all'interno. Quindi immaginiamo se avessero queste dinamiche, performerebbero 3 volte tanto, no? Oppure, come abbiamo già riscontrato, questo non ricentra il branco, ma ci sono venditori che vendono senza avere conoscenze o cognizione di quello che è crearsi un listato, come lavorare sul listato, come vendere, qual è la triplice uscita, piuttosto che il funnel di vendita, piuttosto che il doppio legame di qui, di là, di destra e di sinistra. Quindi sono tutte tecniche di vendita queste. Però stiamo parlando di ginnastica artistica, sì, immagino. Un triplo carpiato, esatto. Con abitamento. Ci sono persone che vendono lo stesso, fanno delle ottime performance. Pensate se a queste performance aggiungessimo anche delle tecniche specifiche. Una conoscenza soprattutto. Beh, a quel punto gli individui performerebbero 4 volte tanto, evidentemente. Ma soprattutto perché il fatto di ritrovare la propria area di talento, cioè di ritrovarsi nella propria area di talento, fa sì innanzitutto che in ambito lavorativo io senta mia quell'azienda, mi senta comunque più disposta a portare novità, più disposta a pensarci, anche magari mentre sto andando a fare la spesa dico, ah guarda, ma quella cosa lì, se facessimo così, magari può migliorare, magari possiamo bypassare questo intoppo. Esatto. E se anche pur vero che anche nel branco di lupi ogni individuo fa molteplici cose, anche se è specializzato, però all'occorrenza fa molteplici cose, allo stesso tempo i lupi ovviamente hanno un'impostazione molto precisa, quindi sanno esattamente quali sono le loro aree e qual è la competenza corretta da manifestare. Se uno non è buono alla vendita, quindi non è capace in un'azienda a vendere, certo che in periodi di difficoltà può subentrare anche quello che individuo a incrementare la vendita. Allo stesso tempo, tolto nel momento di emergenza, ma deve essere immediatamente spostato in altra sede, perché sennò ovviamente la persona sta male, performerà da schifo, non si sentirà parte di un gruppo, non si sentirà parte di quel branco. Quindi è molto semplice in apparenza, difficile a volte poi alla manifestazione, e questo nella difficoltà di identificazione e di manifestazione ci siamo noi, quindi con il nostro lavoro coi cani, coi rapaci e con noi stessi, nel senso, per cui c'è un lavoro molto molto specifico che parte appunto dal Tech System, che sono questi 3 giorni di formazione molto importante di cui parleremo, adesso non vi anticipiamo più di tanto. Quindi ecco, questi gli alfa sono le parti fondamentali. Pregi e difetti delle SDB. Contando che hai parlato di cani e rapaci, noi hai parlato della parte del branco silente, che è quella casa che ci aiuta nella creazione. Sì, no, vabbè, certo, no, ma intendevo con degli interventi proprio con le persone. Sì, però. Per ora Scigolo è ancora non operativo su questo. Anche le tartarughe stiamo pensando, esatto, come integrarle anche in questo, come renderle operative. Pregi e difetti dell'alfa, e con questo concludiamo. Molto semplici, negli altri ruoli ampieremo un po' di più perché ci sono più cose silenti ovviamente negli altri ruoli. Gli alfa è molto chiaro, se gli alfa, i pregi dell'alfa si vedono subito, vuol dire che il branco sta bene, che ogni individuo si sente se c'è un branco. Tanto se c'è un branco, ovviamente il branco sta bene, vuol dire che ogni individuo si sente parte di qualcosa di importante, ogni individuo si sente bene nel ruolo che sta vivendo, si sente in pace, performa al meglio e il branco è gestito, quindi tutti stanno bene, ok? Poi certo che qua dipende poi dalla manifestazione anche della leadership di ogni altro, ma tendenzialmente questo è quello che dovrebbe avvenire. Quindi il branco sta bene, inizia a riprodursi, inizia a crescere. Ricordatevi che il branco di lupi parte da 2 unità fino a 34 e anche a salire. All'interno del branco stesso possono esserci più di un alfa, per gruppi molto ampi, che interagiscono tutti in maniera collaborativa, in maniera molto molto importante. Supponiamo che io abbia un'azienda con diverse sedi nel mondo, ogni sede nel mondo e ovviamente avrà degli alfa. Chiaramente la cosa importante nel momento in cui esistono più alfa all'interno dello stesso gruppo è destinare proprio un settore a quell'alfa. Ah, sì, certo, altrimenti certo. Ci troviamo con un mastino che sì. ci morde l'orecchio tutto il tempo. Esatto. Il difetto dell'alfa, i difetti degli alfa, ma i difetti sono molto chiari da vedere. Il difetto dell'alfa non c'è, non c'è branco, inizialmente questo è il difetto più grande, oppure il branco inizia a esserci, poi inizia a disgregarsi, iniziano gli individui ad allontanarsi, non c'è riproduzione come numero di individui, non riproduzione sessuale, ma riproduzione come numero di individui che fanno parte del branco, non si sentono parte di qualcosa di importante, non si sentono pronti a performare correttamente, anzi vorrebbero fare tutt'altro rispetto a quello che stanno facendo perché si sentono male. Noi purtroppo questa esperienza l'abbiamo vissuta e quando non eravamo alfa di un branco, e vi posso assicurare che è immediatamente riscontrabile, tant'è che infatti ci siamo allontanati e così altre persone. E così abbiamo saputo anche che nella storia di questa azienda era successo altre volte e succederà costantemente fin tanto che gli alfa non prenderanno coscienza di sé, coscienza dei loro ruoli. Quindi ecco, questo è la difficoltà e il difetto principale degli alfa, il fatto che il branco si allontani, se ne vada e succeda un bel guaio. Detto questo, noi abbiamo terminato direi con il discorso alfa, l'abbiamo parlato ampiamente, no? Abbiamo tediato a sufficienza, no? Speriamo di no. Bene, detto questo, la prossima puntata parleremo del beta e... Ha anche tirato su un sopracciglio. Sì, perché in realtà io sono alfa tendente beta, Morena e alfa tendente omega, così almeno iniziate a conoscerci anche meglio per quello che riguarda le ruote. Detto questo, noi vi auguriamo una splendida giornata, una splendida settimana fino al nostro prossimo incontro e ci sentiamo per il prossimo appuntamento. Ciao, alla prossima! Alla prossima! E con questo la nostra puntata finisce qui. Alla prossima, da Morena e Andrea. Ciao!